Chi era Reginaldo Giuliani? Sulle lastre di marmo che riportano la dicitura Via Reginaldo Giuliani c'è un epigrafe con scritto Medaglia d'oro, ma la storia dice altro, facciamo chiarezza. 1915. Fra Reginaldo Giuliani presso il convento di Trino Vercellese, dove è stato assegnato dopo la laurea in teologia, diviene noto alla cronaca per la sua fervente attività di predicatore antisocialista e nazionalista, interrotta solo dalla chiamata alle armi. 1916, nominato tenente cappellano, combatte con il 55° reggimento fanteria Marche la battaglia di Hudilog sul fronte orientale. 1919, dopo la fine del conflitto, durante il congedo, partecipa tra le file degli squadristi fascisti cattolici delle Fiamme Bianche all'occupazione di Fiume, prendendo parte anche alla benedizione del pugnale regalato a D'Annunzio dalle donne fiumane nella chiesa di San Vito. 1920, si iscrive ai fasci italiani di combattimento, divenendo cappellano delle Camicie Nere, vedendo nel fascismo il restauratore dell'ordine geloso custode della memoria della Grande Guerra. 1922, Reginaldo Giuliani partecipa attivamente alla marcia su Roma. 1929, a seguito dei patti lateranensi, il suo sostegno al regime fascista aumenta in maniera esponenziale. 1935, l'entusiasmo nei confronti del fascismo spinge Giuliani a partire come volontario nella guerra coloniale d'Etiopia con il ruolo di centurione cappellano delle Camicie Nere del gruppo Diamanti. 1936, il 21 gennaio, durante la battaglia di Manibeles, Giuliani viene ucciso con un colpo di sciabola. Dopo la sua morte, il regime non perse tempo ad insegnare a Reginaldo Giuliani l'etichetta di perfetto milite fascista, entrando di diritto, come scrive Angelo Del Boca, nel Pantheon dei caduti della rivoluzione fascista.